Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Luglio 2007. Roma. Fa caldo nella città eterna e i turisti stranieri che passeggiano con in mano un gelato si siedono sul bordo della Fontana di Trevi per cercare un po' di ristoro nell'acqua, mentre altri si avvicinano, si girano di spalle e lanciano una monetina sperando che quel desiderio portato da lontano si avveri al più presto. È ancora dolce la vita la sera, tra vicoli illuminati dai lampioni e caffè all'aperto, dove un soffio di vento ogni tanto fa volare via qualche conto che il cameriere ha portato sopra un piattino. Nel museo dell'Ara Pacis, progettato dall'americano Richard Meyer con un'architettura moderna e di forte impatto visivo, fervono i preparativi per l'inaugurazione della mostra sulla moda più imponente che sia mai stata vista, per la quale si ipotizza un afflusso di almeno 200.000 persone. Intanto, nel cuore del Foro Romano, il Tempio di Venere, il più conosciuto dell'antica Roma, è pronto per accogliere 600 invitati VIP. Da Tom Ford a Sarah Jessica Parker, da Uma Thurman a Karl Lagerfeld, da Giorgio Armani a Mick Jagger. Lo scenografo Dante Ferretti, pluripremiato in Europa e a Hollywood, si è ispirato, sotto precise indicazioni, all'Oriente, ideando un'atmosfera che potesse evocare la fantasia di un viaggio tra Russia e Cina. Adesso, guardando il doppio filare di colonne in vetro resina che ha costruito, non può che essere soddisfatto del risultato. Lo scenografo, normalmente, voglio dire, deve mettere sullo schermo se fa un film o non un teatro, solo deve rappresentare la storia, tutto quello che avviene dietro la storia, l'atmosfera del film, il periodo storico, che sia moderno, che sia appunto di qualche anno prima, centinaia d'anni prima, deve raccontare che la storia, a parte gli attori, la storia, voglio dire, tutto quello che circonda, è un'atmosfera molto importante da fare. Gli ospiti, via via che prendono posto, sono sbalorditi dal sogno che li avvolge. Le signore, rigorosamente in abito lungo, si salutano scambiandosi due baci senza sfiorarsi davvero, per paura di rovinarsi il trucco. Gli uomini, tra sorrisi e strette di mano, parlano di affari, in attesa che incominci lo show. Sulle note dell'aria di «O mio bambino caro», tratta dall'opera di Gianni Schicchi e cantata da Maria Callas, tre ballerine vestite di rosso e bianco volteggiano sospese nell'aria con in mano enormi bouquet e sembrano sfidare la forza di gravità in una coreografia che lascia tutti a bocca aperta. L'artista Valerio Festi, che con l'aiuto della moglie ha già organizzato eventi di grande dimensione per oltre 200 città, questa volta per festeggiare con una retrospettiva 45 anni di attività di un uomo che è diventato un marchio, ha in serbo dei fuochi d'artificio ad alto tasso di spettacolarità. E il Colosseo, signore di tutto per l'occasione, si tinge di rosso. Le portate, piede erano prima che lui cammina, si colora di rosso, sì. Il suo rosso, tutto il Colosseo. In sì. Questo compaiono delle artiste, dei danzatori, volando. Mi piace? Non si tratta di un rosso qualsiasi, ma di una tonalità molto accesa tra il carminio, il porpora e il rosso di cadmio. Magenta al 100%, giallo al 100% e nero al 10%. Solo così, con il metodo CMYK, acronimo di una quadricromia, si ottiene la tinta che può usare soltanto l'uomo che l'ha creata. Si chiama Valentino Garavani. Valentino Garavani. Ma come il suo rosso, da tutti viene chiamato semplicemente Valentino. Valentino. Valentino Garavani, ma il mondo l'ha conosciuto semplicemente come Valentino. È stato l'ultimo grande stilista, un imperatore della moda, l'unico a poter controllare ogni processo di creazione dell'abito, dal disegno alla realizzazione sartoriale. Regine, principesse, star del cinema, ricchi di ogni parte del mondo, hanno scelto il suo rosso Valentino, colore inconfondibile che ha segnato la moda per 45 anni. She'll expose you when she snows you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. 1960, primo abito a sfilare, corto, ancora attualissimo, con una gonna da ballerina cosparsa di rose rosse e di tulle, la quintessenza del romanticismo. Il sociologo Georg Simmel si è occupato della moda con atteggiamento accademico, elevandola così da passatempo per signore viziate a tema imprescindibile nei discorsi sul nostro tempo. Ci sono due condizioni essenziali perché la moda prenda vita: il bisogno di conformità e il bisogno di distinguersi. In pratica deve esserci una grande contraddizione tra il desiderio di sentirsi parte di un gruppo e l'esigenza di affermare la propria individualità. La moda si addice molto bene allo spirito moderno perché non solo propone delle novità, ma le mette pure continuamente in circolo, in quanto effimera e destinata a svanire. La moda permette di concepire la novità come illimitata e allo stesso tempo diffonde la percezione che ciò che è assolutamente innaturale può esistere perlomeno in questa forma fugace. Viviamo in un'epoca impaziente, dove ogni cosa è usa e getta e le novità durano pochi istanti, poi stufano, si buttano, ne arrivano di nuove. Sembra che classico oggi corrisponda a vecchio anziché essere sinonimo di senza tempo. E tutto questo ha infranto il sogno di Valentino, l'eterno ragazzo partito dalla provincia che fin da bambino fingeva di dormire e immaginava la bellezza nel mondo, mentre sua madre, molto più pragmatica di lui, gli diceva di smettere di pensare sempre a quelle sciocchezze. I remember very well when I was young. Yeah. I was faking to sleep. Pretending to sleep. And I was dreaming about movie star, dreaming about everything beautiful in the world. My mother say, you are a dreamer. You always dream about stupid things. Voghera, snodo ferroviario e centro importante per la produzione di vini, è il capoluogo dell'Oltrepò pavese. Sorge sulle rive del torrente Staffora, al suo affacciarsi al piano dopo aver solcato l'Appennino, e appoggia esattamente sul 45esimo parallelo. Una cittadina qualunque, ma equidistante tra il polo nord e l'equatore, 5.000 chilometri esatti da entrambi i punti, che la fanno diventare speciale. È un luogo, Voghera, che sembra essere in grado di sfuggire all'anonimato, erigendo quello stesso anonimato a emblema. Nel gergo giornalistico è stata coniata l'espressione casalinga di Voghera per rappresentare una fascia di popolazione italiana piccolo-borghese e di istruzione medio-bassa, a volte con connotazione negativa, più spesso usata come sinonimo di saggezza popolare. È qui che nasce, nel 1931, Valentino Clemente Ludovico Garavani, che fin da piccolo rivela il suo carattere schivo. Io purtroppo sono stata una persona molto privata, molto messa così, stando in un angolo, perché è una cosa che non mi è mai piaciuta, di ostentare o di farmi vedere molto. Negli anni dell'austerità imposta dal fascismo, Valentino cresce tranquillo e posato, ma con la voglia di scoprire il mondo. Guarda la mamma che cuce e rammenda e si immagina che quelle sottogonne austere, rovinate dal tempo, possano diventare fantastici abiti da principessa. Ama tutto ciò che è bello, non è colpa sua. I love beauty, it's not my fault. Ma non sono tempi facili, e l'unico modo per fuggire dalla realtà è rifugiarsi nel cinema, che a Hollywood è nel suo momento di grande splendore. Dinamicità, ritmo, è già alla fine degli anni 30 che un film americano conta, grazie anche allo sviluppo delle tecniche di montaggio, dalle 600 alle 700 inquadrature, vale a dire il triplo della media di 20 anni prima. È il codice Hays a imporlo, quel regolamento che ogni pellicola deve rispettare per essere ammessa nelle sale. I principi su cui si fonda il codice sono essenzialmente tre, rigidissimi. Non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli spettatori. Per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato. Saranno presentati solo standard di vita corretti, con le sole limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento. La legge naturale, divina o umana, non sarà mai messa in ridicolo, né sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua violazione. Gli studios, intanto, comandano a bacchetta le star, imponendo loro ruoli stereotipati a cui è difficile sfuggire. Per esempio, mentre Sandra Dee incarna la ragazza della porta accanto, dal viso pulito e ingenuo, Marilyn Monroe è la bambolona svampita che fa girare la testa agli uomini. Impazzano la commedia e il dramma romantico. Ma il genere preferito del piccolo Valentino è senza dubbio il musical. Lo Lo scopre un giorno quando da ragazzino sua sorella lo porta in una piccola sala di paese con l'odore di fumo e le sedie piene di buchi di sigaretta. Uno di quei vecchi cinema in cui l'orario di inizio proiezione è soltanto indicativo perché, per cominciare, si aspetta che siano arrivati tutti. Judy Garland, Eddie Lamar e Lana Turner sono dive della rivista in Le fanciulle delle follie. Avevo 12 anni e vidi questo film. Io ero un grande ammiratore di Lana Turner e di Eddie Lamar, e quando le vidi in questo film ero estasiato, mi sono reso conto di dover disegnare e di creare degli abiti che in quel momento mi fecero sognare. Oggi le troverei molto così, veramente da rivista, molto... Però, ragazzino, vedendo tutto sto lame d'argento e tutto sto... questi grandi movimenti di tulle che andavano a destra e a sinistra con lunghi strascici, mi fecero veramente capire che io dovevo vestire la donna, dovevo vestire le dive, dovevo vestire tutte le donne più belle del mondo e anche le donne, tutte le donne del mondo. E allora mi sono dedicato completamente a questo lavoro che credo mi abbia permesso di potermi esprimere come mi sono espresso fino ad oggi. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. La sua irrequietezza porta presto Valentino a sentirsi in gabbia nella piccola provincia lombarda. È testardo e determinato. Così decide di parlare alla sua famiglia per spiegare che per lui è arrivato il momento di pensare seriamente alla moda. Si trasferisce a Milano, la città italiana più moderna sul finire degli anni 40, e inizia a frequentare una scuola di figurino, dove impara a disegnare quegli schizzi di abiti che poi le sarte prendono come riferimento quando realizzano i modelli. Ma il disegno è una parte della mia vita, perché io ho iniziato questo lavoro secoli fa disegnandolo, quindi non sono capace di creare un abito se non l'hai disegnato prima. È la mia passione, quindi disegno in continuazione. Adesso sto disegnando, come dico, i costumi per questo balletto, ma è parte della mia vita e quindi non potrei esprimermi dovendo fare un vestito, un accessorio, qualsiasi cosa, senza dover fare prima un disegno. Ma la capitale del lusso, oggi come allora, è Parigi. Un approdo imprescindibile per chiunque voglia fare lo stilista. La tradizione parte da molto lontano. Nelle grandi corti francesi, Re Sole e Maria Antonietta dettavano già legge anche in fatto di look. Intorno al 1870 è di grande tendenza il cosiddetto cul de Paris, letteralmente sedere di Parigi, che consiste nella gonna lunga a fondoschiena sporgente. Nel XX secolo partono le grandi tendenze della moda, quelle che guardano soprattutto al cambiamento di una società sempre più in movimento. Le donne smettono di usare il busto rigido e, metaforicamente e non, si sentono più libere. Nascono le grandi case della moda, come la Maison Callot, l'atelier di Madeleine Vionnet e qualche anno dopo quello di Coco Chanel, la grande rivoluzionaria del costume femminile che con il suo stile ha fatto scuola. Personalità del calibro di Christian Dior, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin trovano in Parigi la loro musa. E lo stesso fa Valentino, quando dopo aver studiato francese per non arrivare impreparato, arriva all'École de la Chambre Syndicale per imparare la sottile arte dello stilismo. Ed era tutta una cosa, una routine abbastanza bella, una routine straordinaria, che chi l'ha vissuta si rende conto cosa vuol dire. Guy Laroche, maestro diventato celebre soprattutto per i suoi profumi, accoglie Valentino nel suo atelier e lo fa diventare suo collaboratore, dimostrando di credere in lui fin dall'inizio. Il giovane di Voghera si è già fatto notare a un concorso importante, ma la strada da fare è ancora molta prima di spiccare il volo. È così, con la testa sempre bassa su un bozzetto e la matita in mano, che si impara a fare questo mestiere. Giorno dopo giorno, anche quando la nostalgia di casa sembra prendere il sopravvento. Beh, l'Italia, sono italiano, l'Italia ha rappresentato e rappresenta tutto un mondo di serenità, di bellezza, di gioia. Non ha un carattere facile, Valentino. Perfezionista, esigente, molto generoso e altrettanto ironico, ma complicato da gestire. È un genio che si è reso conto di non saper far altro che disegnare. In tutto il resto, come ammette senza imbarazzo, è un disastro. Il lato pratico delle cose non fa per lui. È un artista con la testa tra le nuvole che sogna, ma non sa fare i conti con la realtà. È anche da questa divertente consapevolezza che nasce la sua determinazione. Deve farcela. Non ha alternative. Deve sfondare in Italia. L'alta moda italiana, caratterizzata almeno all'inizio da prezzi più competitivi rispetto all'omologa haute couture parigina, è nata a Firenze con la sfilata organizzata il 12 febbraio 1951 dal pioniere della moda italiana Giovanni Battista Giorgini presso Villa Torrigiani in Via dei Serragli, replicata poi alla Sala Bianca di Palazzo Pitti, che ancora oggi è sede rinomata a livello internazionale per la presentazione delle nuove collezioni. Ma adesso Valentino sa che Via Condotti, nel cuore di Roma, è il posto perfetto per aprire il primo atelier. Tutte le signore eleganti che sfogliano le riviste di moda vanno lì, nelle boutique dei grandi couturier, a farsi fare gli abiti per il giorno e per la sera. Il mondo dell'alta moda, logicamente, sì, è un mondo affascinante, un mondo che mi ha sempre dato una grande, dei grandi incentivi per fare delle collezioni che spero siano sempre piaciute, come del resto credo di sì. Logicamente il momento non è più propizio per delle collezioni di questo genere, perché tutti quanti cercano di fare qualcosa e logicamente ci sono ancora tantissimi talenti. Purtroppo la situazione mondiale non è delle più incredibili, e i vestiti, purtroppo gli arti di alta moda sono delle cifre talmente colossali che non vengono più accettati come una volta. Abiti su misura, ricchissimi di dettagli pregiati e costosi, unici e indimenticabili, sono oggi nel mercato guidato dalle catene low cost totalmente improponibili. Il passaggio dalla sartoria artigianale all'industrializzazione del tessile è cominciato con il prêt-à-porter, un metodo produttivo che per la prima volta ha messo al centro dell'attenzione la quantità invece che la qualità, e che ha contrapposto all'alta moda vestiti finiti in taglie standard, pronti da indossare. Ma Valentino non ci sta. Vuole sempre solo il massimo. Vuole la favola, le principesse, gli abiti che toccano terra e rendono splendida la donna che li indossa. Vuole volare con la fantasia come faceva da bambino con i musical di Hollywood che gli piacevano tanto. Naturalmente tutto questo si scontra con la realtà. Con la burocrazia, i conti, le bollette da pagare a fine mese, non ci capisce niente, rimanda, cerca di delegare, non si cura degli aspetti commerciali della sua produzione. Il suo nome sta diventando noto nella capitale, ma il passaparola non basta a non fallire negli anni in cui la pubblicità e il marketing stanno cominciando in ogni campo. Valentino è il cuore, ma ciò di cui per sfondare ha davvero bisogno è una mente. 1965. Non è ancora di moda la stampa animalier. Valentino realizza il primo capo Animal Print, un cappottino maculato decorato interamente di paillette, aggressivo e sofisticato. Per il tailleur, simbolo della collezione, i colori sono senape e rosa con bottoni corallo. La pubblicità girata nel deserto è di forte impatto, misurato ed eterno. A Destini Incrociati siamo nel 1960 e lo stilista Valentino, dopo un'esperienza a Parigi come collaboratore di Guy Laroche, ha appena aperto il suo primo atelier in una delle strade più eleganti di Roma, Via Condotti. L'Italia per me rappresenta tutto questo, rappresenta il trampolino di lancio che ho avuto nel mondo internazionale della moda, che mi ha portato poi logicamente in tanti altri paesi. Nello stesso anno Fellini ritrae l'eccitazione della capitale nel suo capolavoro La dolce vita. Ci sono i suoi amici all'attacco. Ma dove hai tutto acchittato? Signorina Maddalena? No, vi prego, lasciatemi in pace stasera. È tornata, eccola qua, più fotogenica di una diva. Tutte le sere la stessa storia. Ma non si scocciano mai questi qua? Ma palazzo, basta. Quella di se mai, vivo di se mai. Situato oramai, un personaggio della cronaca. Marcia, dici dove vai? Marcia, dici dove la porti, no? È il periodo della frivolezza, delle follie, delle cene indimenticabili e dei divi rincorsi dai flash dei paparazzi. Roma accoglie e accetta ogni eccentricità, fa da sfondo alle storie d'amore che finiscono sui rotocalchi, sopporta i capricci e le ostentazioni mondane. Poveri ma belli che guidano auto di lusso, adolescenti che sfidano le imposizioni familiari, soldi facili che è altrettanto facile spendere in una atmosfera dove regna l'apparenza fuori e il vuoto esistenziale dentro. Nella dolce vita romana tutto è concesso. Si va in giro scalzi, si tira uno schiaffo alla moglie sulla scalinata di Piazza di Spagna, si prendono a calci i fotografi e non si disdegnano alcol e droghe. Ma è anche una stagione magica che ha lasciato il segno in chi l'ha vissuta. Era un momento straordinario, un momento dove veramente non c'erano limiti all'opulenza, all'eleganza, alle belle cose. Anita Ekberg, sirena bionda che fa il bagno in una fontana di Trevi deserta, è il simbolo di questa café society che si incontra tra i tavolini di Via Veneto. Ed è proprio qui che la sera del 31 luglio 1960, Valentino, stanco della giornata di lavoro all'atelier ed esausto dai conti che sembrano non tornare mai, vede un ragazzo seduto da solo e gli chiede se c'è posto per lui e i suoi due amici. Il ragazzo dice di sì e sorride spostando la sedia per agevolargli il passaggio. Valentino non può ancora saperlo, ma è stato il destino a offrirgli l'occasione della sua vita. Da questo momento non potrà più fare a meno di quel ragazzo. Il suo nome è Giancarlo Giammetti. Giancarlo Giammetti. It was the 31st of July 1960. I was sitting in this table in a very very crowd cafe, which was the Café de Paris, it's called. And suddenly somebody came to me and said, are you alone? I say yes. Oh, would you mind if we sit? We are three friends here. La futura Jacqueline Onassis vuole che sia Valentino a disegnarle l'abito da sposa. Pizzo beige e tradizione per l'indimenticabile icona di stile. Giancarlo Giammetti, italianissimo, parla spesso in inglese perché si è abituato nel corso degli anni ad alternarlo regolarmente con la sua lingua madre e con il francese, che il ragazzo di Voghera gli ha insegnato fresco di esperienza parigina. Quando il 31 luglio 1960 al Café de Paris vede avvicinarsi Valentino, lo riconosce immediatamente. Segue la moda e a Roma si sta già spargendo la voce di questo ragazzo talentuoso. Ed è così che una chiacchiera dopo l'altra, Giammetti entra per la prima volta nell'atelier per non lasciarlo mai più. È stata un'esperienza straordinaria perché eravamo due ragazzine che hanno cominciato quasi non per gioco sicuramente, ma con, in un mondo che era completamente differente da quello di oggi, il mondo della moda, quindi è stata un'esperienza incredibilmente eccitante, coraggiosa, poi di successo naturalmente. Amico, collaboratore artistico, amante per 12 anni, socio in affari. Valentino non sarebbe arrivato dove è arrivato senza la presenza costante di Giancarlo, sempre nell'ombra, sempre accanto a lui, a dare consigli e a convincerlo a soluzioni di buonsenso, quando lui invece avrebbe voluto fare di testa sua. Rottura di palle, siete tutti quanti, perché era bello così, senza mettere strisce. Giammetti è un uomo affascinante, brizzolato, raffinato nelle espressioni e nei modi, tanto elegante da finire nel 2006 nella lista degli uomini meglio vestiti al mondo. Quando incontra Valentino, è uno studente di architettura squattrinato che vive con i genitori e può permettersi solo i ristoranti in cui suo padre ha il conto aperto. Non si è mai occupato di affari, ma ha il buon senso di chi è costretto da una vita a misurare quello che ha in tasca. Da un passaggio a Valentino sulla sua piccola Fiat con cui scorazza per le notti romane, e quando i due si salutano, scoprono per pura coincidenza che passeranno entrambi le vacanze a Capri ospiti di amici. Se i paesi avessero un passaporto, basterebbero i faraglioni a dare i connotati di Capri. Ogni anno legioni di giornalisti e di poeti mettono a nuovo il repertorio dei loro aggettivi per gareggiare con gli spettacoli dell'isola. Al ritorno, con la nostalgia dei bagni e degli aperitivi in piazzetta, Valentino si accorge che le sue finanze sono un disastro e che il suo business rischia di fallire ancor prima di decollare. È qui che entra in gioco il suo nuovo amico, che molla la facoltà e si dedica completamente all'atelier. È lui la mente dell'impresa, il lato pratico, quello che sa che 3 più 3 fa 6 e non c'è via di scampo. In settembre, we all came back from vacation and I understand that Valentino has had problems because the company went bankrupt, the first Valentino company. And that's when I arrived, but I didn't have any experience. I was just a student. But I had a little maybe better good sense than Valentino. I mean, a better understanding about 3 plus 3 makes 6. And strange enough, the moment we met, the moment that we start to work together, luck changed completely. Dal momento in cui i due si incontrano e iniziano a lavorare insieme, la fortuna di entrambi inizia a girare. Giammetti aiuta subito l'azienda a risollevarsi dalla bancarotta, consigliando come primo passo di trovare per la sartoria uno spazio un po' più modesto di via Condotti. Sempre nel centro di Roma, naturalmente, ma non nella strada del lusso in cui i costi sono elevatissimi. Un'idea semplice, intuitiva, ma a cui Valentino, testa tra le nuvole e alcuna preoccupazione riguardo ai conti, non sarebbe mai arrivato, al contrario dei designer di oggi, per i quali invece la creatività è solo uno degli aspetti del proprio lavoro e non l'unico. Oggi purtroppo i disegnatori devono, che siano indipendenti o che siano parte di gruppi, devono sempre avere a che fare con costi, con limiti, e quindi lei come fa a limitare l'arte? Negli anni 60, Roma è un centro nevralgico per la moda, tanto quanto Parigi. Il jet set ha invaso la città, ed è proprio a dive e divi che si rivolge la haute couture. Intanto fioriscono le riviste patinate. Una su tutte, Vogue, fondato nel lontano 1892 da Arthur Turner, la cui casa editrice ha intuito fin dai primi anni del Novecento l'importanza che potevano avere le fotografie all'interno del giornale come mezzo di comunicazione, ma anche come arte vera e propria. Anche Valentino viene immortalato, nonostante normalmente non gli piaccia granché ritrovarsi al centro dell'attenzione. Non è che ho mai amato essere strafotografato, sono sempre stata una persona molto così, molto serena, ma molto a parte di tutto questo mondo di pubblicità e di successi in giro per il mondo che mi sono stati dati. Ero felice, però non è che cercavo queste cose. Giammetti capisce che invece la pubblicità conta moltissimo. Non secondo la logica bene o male è l'importante che se ne parli, no. Lui vuole che il nome di Valentino brilli nel mondo. E così lo convince dell'importanza di partecipare alle sfilate di Firenze, prestigiose e perfette per cavalcare l'onda di un successo ancora tutto da consolidare. Palazzo Pitti, 1962. Tutto è pronto per il debutto ufficiale della collezione Valentino. Dietro le quinte lui si muove nervoso, mentre Giammetti sbircia dalla tenda per controllare le star che si stanno sedendo in prima fila. Prima modella, seconda, terza. Lentamente si scioglie la tensione e sui volti concentrati si distendono i sorrisi. Dopo l'ultimo abito in passerella sfila lo stilista. E il trionfo. Applausi scroscianti, signore che si alzano in piedi, clienti stranieri che vanno a stringergli la mano. Il giorno dopo, anche sulla stampa, appaiono commenti entusiastici. Giancarlo e Valentino si abbracciano. È l'inizio del mito. 1972. Imprevedibile sopra le righe l'abito rosa bordato di piume. Per una diva sensuale e sempre protagonista. Era l'autunno e il cameriere Antonio, servendo un tavolo di grandi industriali, sentì decidere che per l'estate prossima sarebbe andata di moda l'acqua blu. Loro dicevano che bastava fare una campagna di pubblicità. mettere in ogni bar un po' di bottigliette, ed il successo non poteva mancare. Antonio trasse l'idea. Destini incrociati. ...1982... Abito lungo, fasciante, nero e giallo e interamente ricoperto di intagli e ricami. Lusso e opulenza per la nuova donna urbana. A Destini Incrociati siamo a Firenze, dove un giovane e creativo Valentino, grazie ai consigli strategici di Giancarlo Giammetti, ha appena presentato la sua collezione con un enorme successo sia di pubblico che di critica. I due sono una coppia sia nella vita che nel lavoro. Si vedono 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. E mentre Valentino, l'artista, fa un po' di capricci, Giancarlo, armato di infinita pazienza, è il migliore dei mediatori tra i suoi sogni e la realtà con cui fare letteralmente i conti. E grazie a Giammetti, se le donne del jet set internazionale adesso cominciano a rivolgersi a Valentino per i loro abiti, sia quelli quotidiani che delle grandi occasioni. Sgravato dalle incombenze burocratiche, Valentino può finalmente dedicarsi solo a tessuti e disegni. Nel 66 è il trionfo con la collezione tutta bianca che lo lancia nell'Olimpo del lusso. Nel 67 vince a Dallas il premio Neiman Marcus, una specie di Oscar della moda, e disegna le divise per gli assistenti di volo della compagnia aerea TWA. Decide che ogni abito deve portare un logo che lo identifichi, quella V disegnata da lui stesso, che nel 1968 ne fa uno degli uomini che decidono nel mondo cosa è in e cosa no. Chi aveva pronosticato la fine delle gonne corte è rimasto deluso. Dovunque il ginocchio continua ad essere abbondantemente scoperto. Gli abiti e i mantelli hanno sempre la cintura e nei tailleur le giacche sono cortissime, con la gonna ricca e svasata. I colori non sono più molto vivaci, ma orientati verso i grigi e i marroni. Giammetti non trascura nessun dettaglio. Si fa carico di tutta la produzione dall'inizio alla fine. È lui che si occupa delle sfilate, della parte organizzativa e di seguire le boutique che anno dopo anno stanno aprendo in tutto il mondo. Valentino, anche se per orgoglio non glielo dice mai, sa benissimo che senza di lui non potrebbe farcela, che è grazie a lui se con lo stacanovismo che lo contraddistingue può passare le sue giornate in sartoria, anziché su una scrivania. Per me, in fondo, ho lavorato tutta, diciamo, una vita facendo la spola dove abito, all'H. Pignatelli, sotto il portone di Piazza Mignanelli, tutti i santi giorni, non vedendo nient'altro, e non ero neanche più invitato da nessun personaggio a pranzo fuori, perché rifiutavo continuamente, quindi perché non avevo tempo, perché la mia vita era chiusa in quella sartoria. Valentino e Giancarlo, anche quando dopo 12 anni d'amore si lasciano, continuano ad essere una coppia simbiotica, che si è creata intorno a una sorta di famiglia allargata che comprende nuovi compagni, fratelli, amici e 5 cani razza Carlino che si muovono sempre con loro. Valentino, lunatico e testardo, ogni tanto si arrabbia, litiga con qualcuno, taglia i ponti, ma al suo fianco c'è sempre Giancarlo che ricuce gli strappi. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. ...1996, due modelli diventano un cult, il tailleur in fantasia militar mimetica e l'abito rosso Siviglia, per una donna che è una e 100.000. La griffa Valentino, grazie alla cura maniacale dello stilista e di Giammetti, è universalmente sinonimo di classe e creatività. La produzione è fatta in modo tradizionale, con le sarte che cuciono a mano e l'artigianalità riconosciuta come grande valore. È per questo che quando nel 2002 il marchio viene venduto ai Marzotto, nella testa di Valentino le cose cominciano a cambiare. Anche se, come ripete sempre, non ha mai fatto e non farà mai quello che gli dice qualcuno, a meno che non si tratti di Giancarlo. E forse è sempre questo motivo a spingere il regista Matt Turner a raccontare la vita dello stilista in qualcosa che fosse una via di mezzo tra un documentario e un film vero e proprio. Questa chance era un qualcosa di unico. Ho avvertito che era molto importante mostrare quella che forse è l'ultima grande casa di alta moda dell'età dell'oro che ancora funziona, sotto la direzione dell'uomo che l'ha fondata. È un documentario film, così credo riuscito, perché ne ho avuto, ho avuto il modo di appurarlo e di capire, dopo tanti dubbi miei, che il film è veramente stato un gran successo. Il titolo Valentino, l'ultimo imperatore, è esaustivo. Dopo di lui, nessuno può essere in grado, sia per il suo carisma che per le ragioni di mercato, di sostituirlo. È finito un momento dell'alta moda con Valentino, il momento del disegnatore e dell'artista completamente libero da qualsiasi confine di costi, di necessità di mercato. La pellicola è un grande successo per cui si parla perfino di Oscar e lascia senza parole i protagonisti, Valentino e Giancarlo, che sono stati seguiti per mesi da una truppa, a volte dimenticandosi che c'era, lasciandoci così un esilarante scorcio sul loro rapporto di infiniti battibecchi e infinito amore. Tu es sûr, ma non c'est trop tard. Tu es sûr de cette sable. De la sable, tu es sûr. C'è bene, ho l'impressione di far sortire Marilyn Monroe col secchiello a correre con Jack Lemmon dietro. Per favore, io avrei fatto veramente di fuori, avrei fatto venire dei pantaloni di gabardine, delle sarianne di chiffon, delle cose del genere. Faccio venire fuori un romanticismo incredibile che vengono fuori dalla sabbia. È bello. Ma non è questione di bello, ma certamente che è bello, la fotografia è bellissima. Ma dimmi te cosa c'entra con sti abiti. Non c'entra niente. Però. Tanto che tu quando c'hai vedere nella testa, io se. C'è mai venuto su queste cose? No. Quasi mai, qualche volta sì. No, mai. Sì, figurati. Mai. Sì. È stato più uno shock quando abbiamo visto il film finito, quello sicuro, perché non ci immaginavamo un film del genere, immaginavamo un bel documentario su un sacco di vestiti, su un sacco di disegni, un sacco di belle donne, qualche festa. Ma devo dire che non è che ho avuto una grande, grande sorpresa, perché in fondo è la mia vita quotidiana e mi sembrava di vivere in quel momento quello che avevo fatto poco tempo prima. Nel 2007, due mesi dopo le celebrazioni romane per i 45 anni di carriera, Valentino lascia definitivamente. Come si dice, è meglio lasciare il palcoscenico quando la sala è ancora piena. Commosso saluta tutti e ringrazia, in modo speciale lui, Giancarlo Giammetti, l'uomo che gli è stato a fianco per tutta la vita rendendolo l'ultimo imperatore. Mais ma gratitude et mon amitié vont tout particulièrement à Monsieur Giancarlo Giammetti. E comunque non per questo non ce la fa più a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.